in effetti è acqua sì che sarà consumata, ma poi restituita ai fiumi e torrenti. Però c'è un problema: che quest'acqua, per arrivare, diventare ghiaccio e arrivare sulle neve, sulle piste, ha bisogno di una serie di trattamenti e di infrastrutture, e sono soprattutto queste che impattano sul territorio, così come il consumo di energia, perché per avere la neve artificiale noi dobbiamo avere dei bacini, averli costruiti, aver stoccato l'acqua, averla prima prelevata dai torrenti e poi costruito tubature, cannoni, sparaneve e quant'altro per portarla sulle piste. Artificializzazione del territorio. E questo vi fa dire, insomma, che questi grandi eventi hanno un grande impatto? Sì, hanno un grande impatto, soprattutto nell'era della crisi climatica, poiché noi stiamo facendo una festa della neve quasi praticamente senza neve. So che in questi giorni sta nevicando un pochino a Cortina, ma fino a due giorni fa non c'era quasi nulla di neve. Quindi si festeggia la neve, ma con la neve che produciamo noi artificialmente. È un paradosso. E poi a questo chiaramente si aggiunge una quantità di cantieri, di infrastrutture che ci si domanda se effettivamente torneranno utili alla popolazione e al territorio. Infatti questo è un ulteriore elemento, cioè spesso le Olimpiadi vengono presentate anche come un'opportunità per i territori perché portano modernizzazione eccetera, ma non è sempre così. Noi parliamo di zone che sono già ipermodernizzate, pensiamo a la montagna che è abbandonata, ad esempio gli Appennini, no? Che forse avrebbero bisogno di un po' di innovazione e di modernizzazione. In questi casi mi sembra che sono già delle località che hanno un alto livello di reddito, sono già dotate di un sacco di strutture e infrastrutture. Forse i servizi mancano, io mi domando magari quante scuole ci sono in questi paesi, quanto la gente può affittare una casa conducendo una vita normale, con uno stipendio medio, credo pochissimo.